2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 25 aprile 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024@radio24.it per inviarci un messaggio di posta elettronica per qualsiasi motivo, per fare domande, considerazioni, anche per richiedere argomenti che vorreste ascoltare a 2024 nelle prossime puntate. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. Vi consigliamo sempre di abbonarvi gratuitamente al nostro servizio podcast. Esistono programmi, iTunes è uno dei più diffusi, uno dei più utilizzati per la gestione del podcast. Poi ci sono altre possibilità, il tutto è molto semplice, molto facile per scaricare settimana dopo settimana in maniera automatica o manuale il file MP3 della nostra trasmissione, quindi poi poterlo riascoltare dove preferite sul vostro lettore di file MP3, oppure alcuni realizzano compact disc, si fanno le compilation di 2024 e le riascoltano con calma quando lo desiderano. Questa settimana iniziamo con una notizia che riguarda Yahoo. L'azienda, come altre del settore internet, sta cercando di tagliare costi e resistere al calo dei profitti e questa settimana ha annunciato che entro l'anno chiuderà, pensate un po', GeoCities. Chi frequenta internet da molti anni ricorderà questo servizio, uno dei primi a fornire gratuitamente spazio sulla rete per pubblicare pagine personali su internet. All'epoca fu una vera e propria rivoluzione, se pensate che GeoCities nasceva nel 1994 e a quel tempo non era facile come oggi essere in rete con una propria pagina o con... non esistevano ad esempio i social network. Il sito era organizzato in quartieri i cui nomi richiamavano un particolare argomento, quindi nel quartiere ad esempio Hollywood si trovavano tutte le pagine dedicate all'intrattenimento, nel quartiere Silicon Valley quelle dedicate alla tecnologia e così via. L'invenzione è stata geniale anche dal punto di vista economico, visto che ha reso ai fondatori 3 miliardi e mezzo di dollari pagati nel 1999 da Yahoo, che oggi, dopo 10 anni, decide di chiudere GeoCities. Quindi ancora per qualche mese le pagine saranno disponibili e poi dovranno essere spostate su altri servizi, servizi che anche lo stesso Yahoo ha, e quindi insomma ci sarà la possibilità di una migrazione, forse fra qualche giorno, qualche settimana arriveranno alcune indicazioni appunto da Yahoo. Un'altra notizia riguarda Microsoft, che per la prima volta nella sua storia, quindi potremmo dire per la prima volta in 34 anni, ha visto calare le vendite. Nell'ultimo trimestre del 6%, cale anche l'utile del 32%. Vanno bene invece le cose per Amazon.com, che vende online oramai una quantità crescente di articoli, un tempo solo libri e compact disc di musica e DVD con film. Adesso insomma si vende un po' di tutto. Ha visto Amazon nel primo trimestre dell'anno gli utili crescere del 24% e i ricavi del 18%. Risultati positivi arrivano anche dalla Apple, che sempre nel primo trimestre ha incrementato l'utile del 15% e i ricavi dell'8,7%. Questi aumenti, questi risultati sono stati spinti dalle vendite dell'iPod e dell'iPhone in particolare, mentre sono invece calate le vendite di computer. Apple ha festeggiato tra l'altro anche ieri la miliardesima applicazione scaricata dall'App Store, il negozio dove si possono scaricare le applicazioni per iPhone e per l'iPod Touch. Quello dei negozi dove poter acquistare le applicazioni è una novità lanciata dalla Apple, ne abbiamo parlato ampiamente, se ricordate, in febbraio durante il Mobile Congress. Dicevo, questa è una novità che è stata lanciata per prima dalla Apple e poi copiata da altri produttori sia di telefonini e anche produttori di software per i telefonini. Nokia in particolar modo, c'è molta attenzione, molta attesa per l'application store, quindi il negozio delle applicazioni della Nokia, che dovrebbe essere annunciato la prossima settimana all'interno della offerta online di Nokia chiamata Ovi. Quanti sono i messaggi di posta elettronica ricevuti ogni giorno in Italia. Questa è una curiosità, il numero è stato calcolato, naturalmente sarà un numero approssimativo, si tratta di circa 420 milioni, secondo un rapporto commissionato da Contact Lab, senza naturalmente contare tutta la spazzatura, tutte le porcherie che girano e che vanno sotto il nome di spam. Le caselle di posta elettronica in Italia sono 51 milioni, circa 2,3 per utente, quindi per navigatore della rete internet. Molti di noi hanno più di una casella di posta elettronica. La media, fatti quattro conti, è di 20 messaggi per ogni utente della rete internet in Italia ogni giorno. Nell'ultimo anno c'è stato un aumento del 20% del volume di email ricevute. Per alcuni l'email è diventata una vera e propria preoccupazione perché arrivano troppe email. C'è proprio un abuso della email. Secondo i dati di questo studio, il servizio di posta elettronica più diffuso in Italia è quello di Hotmail, seguito da Libero, Alice, Tinit, Virgilio, quindi all'interno di questo bouquet ci sono le email che fanno poi riferimento al gruppo Telecom Italia. Con un po' di distacco seguono invece le caselle di posta elettronica di Yahoo e Gmail. Buone notizie arrivano da Bruxelles per chi usa il telefonino all'estero. Dal 1 luglio verranno tagliate le tariffe per chiamate, SMS e traffico dati in roaming in Europa. La tariffa massima per un SMS sarà ad esempio di 11 centesimi di euro più IVA. Le chiamate vocali invece dovranno costare al massimo 43 centesimi al minuto, sempre IVA esclusa, e per quelle ricevute il tetto è fissato in 19 centesimi al minuto. Nuovi tagli sono previsti nel luglio 2010 e 2011. Il rischio, dice qualcuno, è che si vada verso un abbassamento tale per cui costeranno meno alcune chiamate fatte in roaming piuttosto che alcune fatte secondo certi profili nel proprio paese, ma poi dovranno essere adeguate anche le tariffe all'interno degli stati europei. La notizia forse più sorprendente della settimana, abbiamo iniziato forse dalla più curiosa, quella della chiusura di GeoCities, che così ci racconta anche della fine di un'era, di un'epoca, è iniziata 15 anni fa. Dicevo, la notizia forse più sorprendente della settimana è arrivata dalla California lunedì sera. Ricorderete che da parecchi giorni si parlava delle trattative di IBM per acquistare Sun, ne abbiamo parlato più volte anche a 2024. Bene, all'inizio di questa settimana è stata invece la Oracle ad aggiudicarsi Sun Microsystems, offrendo $9.50 ad azione contro i $9.40 di IBM. Non è però solo una questione di prezzo, che sicuramente è importante, c'è sicuramente anche un'affinità culturale tra le due aziende che non c'era e non c'è tra Sun e IBM. L'offerta totale è di 7,4 miliardi di dollari, quasi un miliardo in più rispetto all'ipotesi di IBM. C'è chi ha detto che in questo modo si ridefiniscono i parametri del settore software e hardware per aziende. Larry Ellison, il fondatore della Oracle, ha detto che l'operazione è la più grande della storia dell'azienda. Ricordiamo che Oracle è il secondo più grande produttore di software al mondo dopo la Microsoft. Ora, Oracle entra anche nel mondo dell'hardware con l'integrazione del business dei server della Sun. Di questa operazione sicuramente storica abbiamo parlato con uno dei giornalisti italiani che forse conosce di più questo settore, Francesco Di Martile. Si crea un nuovo soggetto che imita in tutto e per tutto praticamente la IBM, perché diventa e si propone di essere, come storicamente sempre stata IBM, un soggetto al quale un'azienda si può rivolgere ed avere l'intero servizio informatico, dal pezzo di ferro, dall'hardware, dal computer in senso stretto, al sistemi di memorizzazione dei dati e su con tutto quanto i software applicativi, tutto quanto quello che ti occorre, puoi andare in questo negozio e comprare tutto da loro. Qua stiamo parlando di una trasformazione che interessa o interesserà le aziende. Che tipo di aziende? Solo le aziende? Sì, decisamente sì, perché l'offerta che caratterizza Oracle, che caratterizza Sun Microsystems, è soprattutto sostanzialmente orientata alle applicazioni informatiche che governano e che sottostanno un po' alle normale quotidiana conduzione, insomma, del business, degli affari aziendali. Beh, senza tralasciare il fatto che nelle tipologie di business di queste aziende però ci sono anche delle cose che hanno immediate ripercussioni anche con la vita comune di tutti quanti noi. Una delle cose, mi spiego meglio, una delle cose che hanno particolarmente fatto capire che c'è una svolta importante in questo settore è che Sun Microsystems ha sviluppato nei decenni scorsi un linguaggio di programmazione che si chiama Java. Java è una cosa che ciascuno di noi nel proprio telefonino ce l'ha, non lo sa, ma lo usa. È un modo estremamente intelligente e furbo per poter fare delle cose senza la necessità di calcolare grandi numeri o grandi masse di dati. Java, o meglio, le applicazioni basate, sviluppate con il linguaggio Java, sono molto leggere, sono leggere nel senso che non hanno appunto bisogno di grandi calcoli e processore, e sfruttano soprattutto i dati che arrivano dalla rete, cioè sono un strumento di visualizzazione e di fruizione su qualsiasi strumento, dal personal computer appunto al telefonino, di applicazioni di natura aziendale, ma possono anche essere videogiochi, per esempio, e sono quelli tutti quanti i giochini che ci sono sui telefonini, sono per moltissima parte basati su Java. Naturalmente di un'acquisizione così importante e anche così impegnativa dal punto di vista economico potremmo parlare per molte ore, molti esperti vorrebbero esprimere il proprio parere, ma si andrebbe poi sul difficile, sul tecnico. Ad esempio non abbiamo parlato di MySQL, che è un database, un software prezioso all'interno del settore di cui stiamo parlando e che in questa acquisizione finisce nel portafoglio, e vedremo poi quale sarà anche il futuro di questo prodotto all'interno di Oracle. Ma l'importante è capire che con questa acquisizione un grande know-how, un portafoglio di conoscenze molto importante come quello di Sun finisce all'interno di un'altra grande azienda che è un protagonista del mondo del software, soprattutto per le aziende. Poi le aziende sono quelle che ci forniscono i servizi. Tra poco parleremo di evoluzione tecnologica, della evoluzione tecnologica anche nel nostro paese, di quanto le nostre aziende riescono a comprendere quanto la tecnologia può essere un fattore competitivo, soprattutto in questi periodi di vacche magre. Vi anticipo che la prossima settimana, 2024, si occuperà di digitale terrestre, una tecnologia di cui abbiamo parlato, ma soprattutto parleremo anche di alcuni aspetti operativi di questa tecnologia che è già arrivata in alcune regioni d'Italia, ma sta arrivando in altre regioni per completare un disegno che dovrebbe terminare nel 2012, ma vedremo poi se il calendario verrà rispettato. Di questo parleremo la prossima settimana. Se volete scriverci, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, quindi 2024@radio24.it. Saluto Stefano Venturi, amministratore delegato di Cisco Systems Italia. Benvenuto a 2024, anzi potremmo dire anche bentornato. Grazie e buongiorno. Si dice spesso che Cisco Systems sia una parte fondamentale della rete internet, della rete, non solo della rete internet, o potremmo dire addirittura delle reti, che sia uno dei cuori pulsanti. Voi fate, producete, oltre a tutta una serie di servizi che offrite alle aziende, però siete nati come produttori di sistemi di networking, dicono i tecnici, dicono gli esperti. Che cosa fate? Esattamente, noi siamo nati facendo i cosiddetti router, che sono i nodi di rete, i nodi con cui è stata costruita internet, ma non solo internet. Oggi il 99% delle reti, anche delle grandi aziende, ma anche le reti che abbiamo in casa quando ci colleghiamo a internet, sono costruite con apparati che sono o dei router o dei LAN switch, quindi dei switch di rete locale. E noi siamo il produttore mondiale numero uno di questi apparati e siamo quelli che per la gran parte abbiamo costruito la rete internet e le reti delle grandi aziende del mondo. Quindi potremmo immaginare la rete come tantissime strade che si intersecano e voi siete in quasi tutti gli incroci. Possiamo dire che questa è esatta come definizione. Noi abbiamo riempito la rete dei nostri nodi, ma soprattutto l'elemento differenziante di Cisco rispetto ad altri produttori che fanno questi apparati, questi cosiddetti router, è la parte software. È il software intelligente che c'è sopra questi apparati, che permette a questi apparati di lavorare meglio, di venire amministrati meglio, di dare quindi un migliore servizio. Quindi diciamo in questi incroci c'è dell'intelligenza che smista il traffico. Esattamente. In questi giorni, ma non solo in questi giorni, ogni tanto qualcuno si sveglia la mattina e dice: il traffico della rete sta crescendo talmente tanto che oramai è ingestibile. Poi io parlo con i tecnici e tutti mi dicono: no, no, non è così vero. Dal vostro punto di vista, quanto è vera questa cosa? È vero sicuramente che il traffico di rete sta aumentando in maniera vertiginosa e tra l'altro l'incremento sta accelerando. La causa principale dell'accelerazione dell'incremento di traffico è la parte video, quindi la multimedialità. Oggi internet è diventata una piattaforma di interscambio di dati multimediali, quindi ci sono sempre più video che non sono solo in streaming, anche se pure in streaming adesso cominciano ad arrivare quelli ad alta qualità, ma soprattutto in interazione, quindi si fa sempre più videoconferenza, ci si cerca di guardare sempre di più. Quindi il traffico video sta guidando tantissimo questa crescita è vertiginosa. Le reti, è vero, sono messe sotto stress, tuttavia ci sono alcune parti della rete, parliamo della rete mondiale, anche della rete italiana, alcune parti che sono assolutamente capaci di portare questo incremento, altre che sono un pochino più sotto stress. Sicuramente il fatto di avere degli apparati intelligenti sulla rete aiuta sicuramente a gestire meglio i picchi di traffico, quindi la rete ce la farà sempre che gli operatori continuino a investire. Stefano Venturi, avete sentito, ha citato la videoconferenza, che è un tema che negli ultimi anni vi sta a cuore in modo particolare. Per quale motivo state investendo in sistemi di videoconferenza? Poi voi li chiamate in un altro modo, ma tutte le aziende insomma cercano poi di chiamare le proprie soluzioni in modi alternativi. Sì, noi abbiamo deciso di investire in questo settore, questa decisione l'abbiamo presa circa 2 anni fa, E siamo entrati in un settore che sta sopra la videoconferenza, che noi abbiamo definito telepresenza, che alla fine è una videoconferenza, ma ha delle caratteristiche che ne differenziano proprio l'essenza. Perché di videoconferenza si parla da 10-20 anni forse. Esattamente, esattamente, se ne sente parlare da tanto tempo, tutti quelli che l'hanno provata, anche i migliori sistemi, comunque scontano un ritardo nella risposta voce dall'altra parte, soprattutto se si è a distanza, la qualità non è elevata, manca il contatto degli occhi, la voce arriva in banda stretta, quindi ci sono una serie di cose che non permettono al corpo di mandare i cosiddetti segnali del corpo, quelli che gli americani chiamano il body language, che soprattutto per noi italiani è importantissimo, ma non solo per noi italiani, perché ce la raccontiamo, ma poi è importante per tutti. Vedersi, parlarsi. Esatto, vedersi, però parlarsi. Però voi dite che stanno cambiando le cose. Stanno cambiando le cose. Nel parlarsi in una videoconferenza la gente vuole anche cogliere la reazione nell'altro di una cosa che dico, cosa che io posso vedere di persona ma che assolutamente non colgo in videoconferenza. In videoconferenza verifico solo che mentre parlo quello mi stia a sentire, tanto è vero che in tante aziende ora la videoconferenza tradizionale sta un po' soffrendo una crisi perché non dà questa essenza. Ora la telepresenza è invece un sistema che rappresenta una svolta epocale. Infatti il video è a full HD, quindi full high definition 1080 progressivi, la qualità passa tutta la banda hi-fi come qualità voce, esiste anche un effetto stereo e surround quindi della stanza, quindi sono delle stanze di conferenza dove ci si può parlare, si può interagire e il ritardo di voce e video nel momento in cui si interagisce è al di sotto della soglia di percezione umana, quindi come si può capire, cambia totalmente l'esperienza. E quindi veramente è la prima videoconferenza che porta veramente a eliminare dei viaggi e quindi a avere un minore impatto non solo sui costi, ma sulle emissioni di CO2. Voi immagino che siate stati i primi a utilizzarla, almeno per provarla. Certamente, noi quindi abbiamo 400 sale nel mondo e solo il primo anno che l'abbiamo usata, quando ancora non avevamo le 400 sale, abbiamo ridotto il nostro impatto come emissioni di CO2 a livello mondiale del 10%, risparmiando circa 780.000 tonnellate di emissioni di CO2. E anche dei soldi. E anche spero, tanti soldi, assolutamente. Una curiosità, anche pensando a molte aziende piccole che forse alcuni sistemi non se li possono permettere, ci sono dei nodi che vengono affittati, che ne so, io devo fare una chiacchierata con un americano, invece di andare a New York o a Los Angeles, dico, vado a Milano in una sala dove c'è una... un sistema di videoconferenza come quello che abbiamo descritto e insomma faccio un viaggio un po' più corto. Stanno partendo delle iniziative in questo senso, oggi non esiste ancora un qualcosa di fruibile adesso, ma noi siamo al corrente, ma abbiamo firmato dei contratti con delle aziende che faranno questo servizio, in questo momento non è ancora partito, ma presto, nei prossimi mesi, vedremo partire questo tipo di servizio che è sicuramente molto molto utile. Una prova almeno me la fate fare? Assolutamente, cioè, sì. Nel senso, quindi se un'azienda dice, ma io non so come, cioè esiste la possibilità comunque di provare collegandosi, che ne so, con gli Stati Uniti, con la Cina? Certamente, certamente. Noi tra l'altro a Milano il 9 di marzo abbiamo inaugurato il Cisco Business Collaboration Center, che è un centro che mette in collegamento le nostre aziende italiane e le pubbliche amministrazioni con il meglio della ricerca che noi abbiamo in giro nel mondo. Oltre al nostro centro di Monza ne abbiamo tantissimi in giro anche nel mondo. E come lo facciamo? Attraverso la telepresence. E quindi le aziende possono venire da noi, non solo sperimentare la telepresence, ma fare proprio delle sessioni di lavoro con i nostri ingegneri che sono in giro per il mondo. Quindi assolutamente sì. Mm. 2024. Seguiteci su Radio 24 il sabato nel pomeriggio tra le 15.30 e le 16.30. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Quindi ci trovate anche online se perdete la puntata del sabato o se siete arrivati solamente in questo momento e magari vi siete persi la prima parte. Io sono Enrico Pagliarini, grazie per la vostra attenzione. È con noi in questa puntata nel nostro studio Stefano Venturi, amministratore delegato di Cisco Systems Italia. Dunque Venturi, dicevamo poco fa, o meglio io anticipavo una domanda che vorrei fare sulla cultura dell'imprenditore nei confronti della tecnologia. È vero, e quanto è vero, che come alcuni dicono mediamente gli imprenditori italiani faticano a capire quali sono i vantaggi che le tecnologie possono portare in termini di competitività? Allora, io credo che talvolta sia veramente facile bollare il manager, l'imprenditore italiano come quello che non è aperto all'innovazione. Diciamo che è parzialmente vero, nel senso che l'Italia, per quanto attiene alle tecnologie, nel business e nella pubblica amministrazione è tendenzialmente un paese poco innovativo, abbastanza indietro. Tuttavia, quello che io noto è che gli imprenditori italiani e i manager italiani, quando vedono i risultati, i ritorni che la tecnologia può dare nel business, sono i primi a coglierne i vantaggi. E la prova di questo è la grande industria di macchine industriali e controllo numerico che è stata costruita in Italia e l'altissima automazione delle nostre fabbriche. Questo è avvenuto negli anni 60 e 70. Questo ha comportato grandi investimenti, ma lo hanno fatto. E anche oggi, ogni qualvolta noi vendor di tecnologie siamo in grado di spiegare queste cose, gli imprenditori lo capiscono. Quindi io direi, io normalmente cerco di guardare come io faccio le cose, come noi facciamo le cose. Io credo che noi del settore dobbiamo migliorare nel proporre le tecnologie agli imprenditori italiani. Quindi prendete una parte della colpa. Assolutamente. Beh, devo dire che noi come Cisco riusciamo bene, nel senso che le tecnologie che noi offriamo riusciamo a venderle bene, ma vediamo che anche dove non riusciamo, o talvolta anche quando altri nostri o concorrenti o aziende partner non riescono a vendere le tecnologie, spesso, non sempre, è perché non vengono contestualizzate nelle necessità, a seconda delle necessità di business dei clienti. Si fatica a far capire il vero beneficio. Esatto, quindi io credo che un ruolo importante dello stimolo che io do ai miei collaboratori, devo dire oggi sono molto contento perché sono circondato da gente brava a fare queste cose, è stato ovviamente un percorso importante, ma lo stimolo è crescere e cercare non solo di capire le tecnologie, ma capire il business e le necessità dei nostri clienti. Dunque, le aziende dovrebbero cambiare, deve e dovrebbe cambiare anche la pubblica amministrazione. Allora, si dice che alcune cose stanno accadendo, però volevo anche un parere di Stefano Venturi. Quanto in realtà sta cambiando la pubblica amministrazione? Ma direi che la grande novità, la grande sfida che è stata lanciata è epocale in Italia, il fatto di arrivare al 2012 a una pubblica amministrazione senza carta, come direbbero gli americani, paperless. Esatto, paperless. Io leggevo alcune riviste specializzate nel mondo della radio e negli anni 90 già si pubblicizzava lo studio paperless. Oggi se uno si aggira in una radio, anche a Radio 24, purtroppo di carta ce n'è ancora molta. Comunque, diciamo, guardiamo con fiducia questa che comunque è ancora una promessa. Ecco, infatti io credo che qua la chiave importante, perché la dichiarazione è importante, è sicuramente un programma visionario molto forte, dobbiamo stare però molto attenti, perché paperless non vuol dire necessariamente senza carta, non vuol dire veramente necessariamente senza carta, cioè non vuol dire scannerizzare i documenti, perché qualcuno fuori magari l'ha interpretata così. Io credo che sarà di successo se si riescono a fare le transazioni via web. Poi fa niente se poi si dovranno in qualche modo, uno poi se la stamperà. Adesso, la gente, le abitudini delle persone impiegano tanto a cambiare. Oggi molti vogliono ancora stampare le cose per leggerlo. Va bene, ci vorrà del tempo, ci vorrà una generazione. Ma l'importante è se per il 2012 le interazioni tra le pubbliche amministrazioni e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini e le aziende avverranno via web, allora questo sarà un grande successo. Se invece si scannerizzeranno i documenti per archiviarli, sarà un fallimento e solo un costo aggiuntivo. A proposito di videoconferenze, la chiamate voi di telepresence, la pubblica amministrazione sta facendo qualcosa? Perché immagino non solo le riunioni tra i politici, ma anche le riunioni tra i funzionari potrebbero beneficiare di questa tecnologia. Ma allora, progetti già partiti non ce ne sono ancora, anche perché la telepresence è molto recente come tecnologia. Abbiamo però aperto tantissimi tavoli di discussione con varie pubbliche amministrazioni, perché possiamo veramente immaginare quanti spostamenti in meno con le cosiddette auto blu, auto di servizio, ci possono essere. Talvolta anche con scorta al seguito di magistrati, di politici, talvolta anche magari di detenuti che si devono muovere per interrogatori. Quindi direi che ci sono dei margini di risparmio giganteschi. L'importante, ed è un limite normativo, è far sì che il risparmio possa essere trasferito da un capitolo di spesa a un altro. Perché oggi quello che, non tutte, ma una buona parte delle pubbliche amministrazioni scontano, è che se io quello che risparmio in viaggio non posso riversarlo su spese IT, Information Technology, necessariamente. Quindi questo è un limite, non avviene così dappertutto, ma per la maggior parte è così. E quindi bisogna superare, per arrivare a una vera digitalizzazione, bisogna superare anche degli ostacoli normativi e di bilancio. Sì. Voi siete un'azienda che guarda prevalentemente al mondo del business, è corretto? È corretto, ma abbiamo anche una divisione consumer. Ecco, volevo capire come si sta spostando la bilancia, perché per alcune aziende, fino a qualche anno fa, concentrate prevalentemente nel business, si sono aperte delle finestre molto interessanti e alcuni dicono che il mondo consumer, cioè del consumatore finale, darà delle grandi soddisfazioni per i prossimi anni. Per voi come stanno le cose? Ma noi abbiamo aperto una divisione consumer circa 4 o 5 anni fa, e devo dire che sta andando alla grande. Partita ovviamente molto piccola, ma sta più che raddoppiando il fatturato di anno in anno. Perché però abbiamo fatto quella mossa? Quella mossa non l'abbiamo fatta semplicemente per avere un portafoglio in più di prodotti, ma proprio per questo che hai appena detto. Cioè che molte innovazioni, non tutte, ma sempre di più, tante innovazioni partono dal consumatore, dal consumer, che poi le porta in azienda, cercando di forzare le resistenze del capo dell'information technology in azienda, il quale cerca di tenerli fuori. Allora noi da un lato sulle tecnologie di rete che stanno dietro le reti business abbiamo fatto delle implementazioni che fanno sì che un ragazzo della generazione Y, no? Questi nativi di internet che arrivano in azienda, vogliono usare i loro social network, le loro chat in azienda, possa lavorare anche in azienda in maniera sicura senza interferire nei sistemi. Ma al tempo stesso siamo entrati anche proprio nel mondo consumer per andare a cogliere all'interno delle abitazioni, all'interno delle case, il nuovo mondo dell'intrattenimento digitale che sta nascendo e che impatterà le tecnologie di domani. Bene, io ringrazio Stefano Venturi per essere venuto a trovarci nei nostri studi. Buon lavoro, a presto. Grazie. Parliamo di computer adesso perché tra pochi giorni arriverà sul mercato un nuovo prodotto che farà un ulteriore passo in avanti verso tre direzioni. Abbassamento delle dimensioni e del peso, sempre molto importante, aumento della potenza e abbassamento del prezzo, altro elemento apprezzato da molti consumatori. Sapete che la rivoluzione dei netbook, di cui abbiamo parlato spesso nel 2024, cioè questi computer portatili piccoli, leggeri, un po' meno veloci e potenti rispetto ai portatili tradizionali, ma economici, perché parliamo di prodotti che stanno all'incirca tra i 3 e i 400 euro, bene, tutto ciò è stato possibile anche grazie ad un processore realizzato da Intel, che si chiama Atom. Allora, come fare ad aumentare la potenza di un computer con Atom, visto che questo è un processore meno potente perché deve essere più economico, deve risparmiare energia? Insomma, si è trovata una soluzione, cioè sfruttare il chip grafico e quindi spostare parte della potenza di calcolo sul chip grafico, visto che molte cose che i nostri PC devono fare sono in ambito multimediale. Tutti i computer hanno integrato sulla scheda madre o comunque da qualche parte il processore grafico, oppure hanno un processore grafico dedicato da qualche altra parte, insomma tutti ce l'hanno, perché poi le immagini le dobbiamo vedere, quindi tutti i computer si devono occupare di questa cosa. Insomma, in questo modo, con questa soluzione, possiamo continuare a utilizzare ad esempio questo processore, quindi avere computer poco costosi, e anche su un computer tradizionale possiamo ottenere questi risultati tenendo bassi i costi e addirittura riducendo le dimensioni. È stato realizzato, è il primo prodotto che è stato realizzato, è stato fatto da Acer assieme ad Nvidia, un piccolo computer che è molto simile a un computer tradizionale, poco costoso, con potenze analoghe, molto simili, diciamo così, anche se non proprio uguali, ma molto leggere, molto piccolo. Pensate che si parla di delle dimensioni di un libro, poco più grande di un libro. Insomma, la rivoluzione è sicuramente interessante, anche perché poi sul mercato arriveranno presto altri prodotti simili. Per parlare di questo è con noi, e saluto, Edmondo Orlotti di Nvidia. Benvenuto 2024. Grazie, un saluto agli ascoltatori. Voi siete produttori di silicio, ma un silicio particolare. Noi siamo produttori di silicio nella forma delle GPU, cioè del Graphics Processing Unit, i processori grafici. Quindi processori grafici. Dicevo che il silicio rimane protagonista nei computer, ma dal classico processore al quale eravamo abituati, ci si sta abituando, l'industria si sta spostando verso una serie di componenti, quindi non più solo il processore, che rimane comunque uno dei cuori del computer, ma diventano importanti anche altri pezzi di silicio. Sì, soprattutto nel momento in cui ci abituiamo a utilizzare i nostri dispositivi, i nostri apparecchi, i computer, ma anche i telefoni cellulari in maniera sempre più visuale, è chiaro che i processori grafici assumono un'importanza sempre più rilevante, e questo fa sì che per il bilanciamento di una piattaforma sia necessario avere più pezzi di silicio, quindi più CPU e GPU, ognuna specializzata in quello che riesce a fare meglio. Dunque, questo prodotto del quale parlavo poco fa è il primo di una serie, che poi vedremo anche da altri produttori, immagino, dicevo, basato su un processore Intel che fino ad oggi è stato pensato solo esclusivamente per i netbook, quindi questi computer molto leggeri, molto poco costosi e anche con prestazioni limitate rispetto ai computer normali. Oggi questo processore viene presentato in un computer vero e proprio grazie ad un potenziamento che è basato su una piattaforma grafica, dico bene? Esatto, accanto ai processori Intel Atom che hanno dominato il mondo dei netbook fino ad oggi e il mondo dei nettop, cioè i netbook che stanno sulla scrivania in maniera fissa, diciamo non sembrano dei portatili, sembrano dei computer da tavolo. Accanto all'Intel Atom, Nvidia ha prodotto una piattaforma che si chiama Ion e che è dotata di un chipset grafico e, diciamo, di altri pezzi di supporto per il processore e per il sistema, che consente di utilizzare netbook e nettop esattamente come dei PC standard. È possibile quindi far girare Vista in versione premium, sono già certificati per funzionare con Windows 7 quando uscirà. Quindi un computer vero e proprio in una nuova fascia di prezzo. Ecco, questo è interessante, cioè cambiano le prestazioni, quindi fino a ieri, e diciamo ancora oggi, siamo abituati ai netbook che hanno prestazioni un po' più limitate rispetto ai computer tradizionali. Oggi con questa tecnologia possiamo dire che i netbook diventano computer con prestazioni uguali agli altri computer, ma che costano sempre come i netbook. Sì, diciamo che l'aspetto fondamentale è il fatto che oggi questi netbook e nettop da tavolo, prima li distinguevamo con questi nomi per indicare che ci si poteva fare un numero di cose limitato. Oggi in realtà li distinguiamo semplicemente perché sono dei computer che costano meno. Per dare un esempio molto banale, sui netbook prima non si poteva riprodurre un filmato in alta definizione, ad esempio, e oggi si può fare. Sì. Oggi si dispone di tutta la multimedialità, anche dei videogiochi di base di cui si può disporre su un computer normale. Oh, naturalmente ricordiamo che stiamo parlando di evoluzione tecnologica e di novità che stanno arrivando sul mercato in queste settimane, in questi mesi, entro l'estate. Quindi ancora oggi comprare un netbook nella maggior parte dei casi significa comprare un prodotto poco costoso, leggero e con prestazioni ancora limitate. Poi queste evoluzioni le vedremo anche nei prossimi mesi. Secondo voi l'evoluzione delle tecnologie, diciamo, legate al mondo del silicio sta cambiando l'industria del PC per quale motivo? Ci sono solo PC più potenti o anche PC meno costosi? Ma noi è da un po' di anni che insistiamo su quello che è una tendenza tecnologica che definiamo in parte inevitabile, cioè grazie all'aumento della potenza che si verifica comunque costantemente per l'evoluzione tecnologica, a questo punto il PC in generale, senza distinguere che sia un desktop, un notebook, un nettop o quanti altri termini si vogliono trovare, il PC in generale è destinato a differenziarsi a seconda del modello di utilizzo di chi ci lavora. Quello che vedremo in particolare quest'anno è arrivare il PC verso la fascia bassa con prestazioni che prima erano impossibili, quindi sarà possibile utilizzare il PC per fare cose che prima richiedevano PC molto più potenti. Lo vediamo già nel mercato, perché già il 2008 è stato l'anno del successo dei netbook a discapito dei notebook e ancora di più a discapito dei desktop. Già oggi si vendono, anche in Italia semplicemente, si vendono molti più notebook che desktop. E i notebook, man mano che aumenteranno di numero, vedranno arrivare sempre più netbook. Questo può portare addirittura a far sparire determinate fasce di mercato oppure a cambiarne il modello commerciale. L'abbiamo già visto negli Stati Uniti, potrebbe darsi che un domani il nostro fornitore di connettività ADSL insieme all'abbonamento ci offra per 50 o 100 euro un netbook a piene specifiche, quindi un vero e proprio computer. Grazie a Edmondo Orlotti per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie, a risentirci. Adesso per chiudere questa puntata di 2024 vi raccontiamo una storia che ci dà anche lo spunto per fare il punto della situazione, visto che alcuni ascoltatori ogni tanto ci fanno delle domande sull'utilizzo dei nomi a dominio. Un nome a dominio è www.radio24.it. ecco, quello è un dominio di secondo livello. Il dominio di primo livello è il .it, che identifica o una nazione o uno specifico uso. Ad esempio il .com è nato per l'ambito commerciale, il .org per le organizzazioni. Insomma, ci sono tanti domini di primo livello e tanti naturalmente domini di secondo o altri livelli. Di questo abbiamo parlato 2024. Adesso però vorremmo raccontare una storia che va avanti da molti anni, quindi alcuni di voi forse la conoscono già, ma che, come dicevo, ci dà ci offre l'opportunità di fare il punto sulla situazione. La storia ce la racconta lo stesso protagonista. Io mi chiamo Armani Luca ed ero titolare del sito internet www.armani.it. Lei ha registrato questo sito internet, questo dominio www.armani.it, quando? L'ho registrato nell'ottobre del 1997, quando ho fatto la registrazione il nome era libero, quindi l'ho registrato. Anche perché lei appunto si chiama Armani di cognome. È il mio cognome. Senta, lei che cosa fa di mestiere? E io faccio timbri, targhe, insegne luminose. Quindi questo sito internet che lei ha creato era un sito internet che in qualche modo le serviva anche per il suo lavoro? Certo, sì, io in pratica su questo sito internet avevo messo in vendita tutte le varie merci che io produco. Quindi diciamo che lei nel 1997 aveva cominciato ad occuparsi anche di commercio elettronico? Sì. In pratica le prime cose che ho cominciato a vendere tramite internet sono stati i timbri. Nel 1998, quindi pochi mesi dopo, che cosa è successo? Mi è arrivato un pacco da parte dello studio Rapisardi di Milano, che sono gli avvocati di Giorgio Armani, i quali mi intimavano di restituire questo nome a dominio, perché secondo loro questo nome a dominio spettava la Giorgio Armani. Quindi parliamo di 11 anni fa, sì, dal 98 sì, fino ad sì, oggi. La sua reazione poi, qual è stato poi sì, anche la conseguenza di questo pacco che le è arrivato? La mia risposta a questo pacco è stato no, perché il dominio era mio e mio doveva restare, e a seguito del mio no, in pratica è partito un processo. Che si è concluso con quale esito? Il processo si è concluso nel 2003 con la vittoria di Giorgio Armani e una mega multa nei miei confronti. Lei naturalmente non è mai stato d'accordo e non è d'accordo con questa decisione, per quale motivo? Non sono mai stato d'accordo perché io sono stato il primo a registrarlo, quello era mio e mio doveva restare. Perché lei dice io mi chiamo Armani. Armani, per me Armani, cioè un cognome secondo me vale tale quale un marchio, però per il Tribunale di Bergamo non è stato così. Questa è molto in sintesi la storia di Luca Armani, che è tornata di attualità perché Armani ha ripreso uno sciopero della fame che aveva proposto qualche tempo fa e continua questa sua battaglia che probabilmente terminerà con un nulla di fatto. Lui ne fa una questione di principio e secondo lui appunto dice il mio cognome è Armani e quindi io ero il legittimo proprietario e dovrei continuare ad essere il legittimo proprietario di questo sito internet. Ma come stanno le cose? Che cosa dice la legge? Come avete sentito, il tribunale non ha dato ragione a Luca Armani, bensì ha dato ragione ad una grande azienda che ha un marchio registrato in tutto il mondo. Beh, per fare il punto della situazione abbiamo chiesto un parere all'avvocato Laura Turini, che in Italia è stata una delle prime ad occuparsi di questi temi, di brevetti, di marchi, di internet e di nomi a dominio. Allora, innanzitutto dobbiamo capire se il titolare del nome a dominio è anche titolare del marchio corrispondente oppure no. Se non lo è, come talvolta capita nelle azioni di cyber squatting, in quel caso normalmente la legge prevede che il titolare del marchio prevalga. Addirittura c'è un articolo espresso nel codice della proprietà industriale, che è l'articolo 22, che dice espressamente che è vietato usare come nome a dominio aziendale un segno uguale o simile al marchio altrui. Per cui normalmente chi ha il marchio registrato ha anche il diritto di usarlo in funzione di nome a dominio aziendale. Ci possono essere delle ipotesi dubbio, delle ipotesi di conflitto quando ad esempio il nome a dominio venga registrato in data anteriore rispetto al marchio. In quel caso non sempre, direi quasi mai, il marchio prevale, però tutte le volte in cui siamo in un'ipotesi opposta, in cui esiste un marchio registrato e successivamente qualcuno, spesso approfittando della notorietà del marchio, registra un nome a dominio uguale, è destinato 99 su 100 a perderlo, direi giustamente, a favore del titolare del marchio. E qua va detto che stiamo parlando di utilizzo commerciale di un nome a dominio diverso. Sarebbe il caso del signor Luca Armani, che avesse registrato armani.it e non ne avesse fatto un uso commerciale, avesse raccontato la storia della propria famiglia, avesse inserito qualche fotografia e nulla di più, avesse fatto ad esempio un blog. In quel caso avrebbe avuto tutto il diritto di continuare ad utilizzarlo. Questa è una risposta quindi ad alcuni ascoltatori che ci hanno scritto nel corso delle ultime settimane per chiederci lumi su questi utilizzi. Beh, se qualcuno volesse approfondire, esiste un sito internet creato dal signor Luca Armani, www.armani2.it, dove lui racconta tutta la sua battaglia, ma naturalmente poi qua si sfocia in un ambito che non è quello di 2024, dove parliamo prevalentemente di tecnologia, dell'impatto della tecnologia, anche dell'uso della tecnologia e di tutte le novità che riguardano la rete internet. Detto questo, vi salutiamo, vi ringraziamo per la vostra attenzione, per le vostre email. Il nostro indirizzo è 2024@radio24.it, grazie anche a Luigi Borghi in redazione. Troverete questa puntata sul nostro sito internet e vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.